Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati a Ferry Boat, in Sergante il traghettatore. Oggi parliamo di un mito, perlomeno un mito soprattutto per i bambini, McDonald's. Ma anche McDonald's entra nella, come dire, sfera visiva dell'impresa sociale con una iniziativa che riguarda proprio un paese vicino a Milano, si chiama Lainate, dove la sede di McDonald's è diventata verde. Che cosa vuol dire? Ce lo spiega l'environmental manager Carla D'Andrea. Buongiorno a tutti, vuol dire semplicemente che questo è il nostro primo ristorante in Italia a basso impatto ambientale. Spiegandoci un pochino meglio va fatta una premessa: McDonald's è impegnata a livello europeo in una misurazione della propria impronta, questo significa evidentemente capire quanto siamo pesanti direttamente o indirettamente sull'ambiente, e da questo ovviamente ha tutta una serie di azioni per ridurre questo impatto. Il consumo di risparmio energetico o l'autoproduzione è incontestabilmente la chiave per risultati importanti dal punto di vista ambientale. Quindi che cosa ci siamo proposti? Semplicemente di costruire meglio per ottenere delle efficienze nel breve, medio, ma anche nel lungo termine. E Lainate abbiamo puntato, per essere più semplici possibili, sulla luce del sole, la forza del vento, ma soprattutto il riutilizzo delle nostre biomasse. E qui entriamo proprio nella visibilità massima per un consumatore, perché parliamo degli oli vegetali, che sono nel nostro caso a base di girasole per il 70%, quindi sono anche oli pregiati, e ne abbiamo deciso l'utilizzo per farne energia. Quindi in sintesi Lainate è un grande laboratorio di sperimentazione, per questo sono molto cauta nel definirlo verde, sostenibile o altre caratteristiche, mi piace definirlo un laboratorio perché siamo partiti dall'involucro, abbiamo creato una progettazione antisismica costruita con materiale leggero, aerato si dice tecnicamente. Poi siamo andati avanti, un tetto ventilato, vetri e bassi emissivi, asfalto e rivestimenti ecoattivi che sono veramente una novità nel scenario di McDonald's, e poi ancora siamo andati avanti, una supervisione intelligente delle utenze, macchinari di nuova generazione energy saving, e ancora di più abbiamo impiantato un fotovoltaico integrato che ci dà 9 kW di potere, un impianto solare termico, la trigenerazione che stiamo per installare nelle prossime settimane ad olio vegetale, come dicevo sopra, e la trigenerazione non è altro che utilizzare questa biomassa per fare non solo energia elettrica, ma anche acqua calda e fredda per la climatizzazione. Bene, e questo non sarà evidentemente l'unico caso, ne avete in pochi secondi, ne avete anche altri in programma? Allora, assolutamente, andando alla velocità di 30 aperture nuove l'anno e altrettante più o meno sono le ristrutturazioni, quello che abbiamo già deciso a tavolino è che di default i nostri nuovi ristoranti avranno sicuramente massimo isolamento, illuminazione LED, recupero di calore ovunque, risparmio idrico e assolutamente sempre solare termico. Le opzioni più evolute, fotovoltaico, trigenerazione, ce le riserviamo magari per un gemello che vorremmo realizzare al sud, proprio per avere il nord e il sud che ci dicono tutto quello che vogliamo sapere, ma d'altra parte aspettiamo anche di capire che portata hanno questi investimenti e l'efficacia da un punto di vista ambientale. Grazie per la dovizia di particolari. Il gruppo terziario innovativo Asso Lombarda, stiamo parlando di Milano, ha organizzato un incontro per il 2 maggio, lunedì, su rinascimento digitale. L'incontro è nella sede di Asso Lombarda. Si prende spunto dall'appello di imprenditori, docenti, cittadini, artisti per lo sviluppo della cultura digitale nel nostro paese. Si parte dal presupposto che la tecnologia è parte integrante della vita quotidiana, ma è anche una grande opportunità di crescita economica che l'Italia forse non sta seguendo, non sta cogliendo appieno. Fra gli altri è prevista anche la partecipazione del ministro dell'innovazione Renato Brunetta. Questo è tutto per questa edizione del sabato, che vi ricordo sarà replicata anche alle 13:55. Ferry Boat va in onda anche la domenica alle 6:50 e alle 14. Grazie a Danita Panizza e in redazione e a De Mauro De Angeli in regia.